tramite un robot, quindi con il gesto preciso garantito dal robot, allora tramite il senso del tatto può anche percepire il corpo su cui sta operando e quindi farlo ancora in modo più preciso. Benissimo. Altro esempio? Sì, ad esempio la robotica di soccorso, cioè abbiamo visto il caso del Golfo del Messico, il Fukushima, cioè sono tutti contesti altamente impervi in cui la persona non può andare, allora è necessario mandare un robot. Si mandano dei robot, certo. Sì, se il robot poi ha dei sensi limitati, cioè soltanto la vista o altri sensi, ma non ha il tatto, nel momento in cui perde un senso, come nel caso del Golfo del Messico con l'emissione di petrolio, che quindi può annebbiare la visibilità dell'ambiente circostante, avere il senso del tatto, come può noi essere in una utile. Camera chiusa e al buio riusciamo a prendere un bicchiere senza farcelo cadere dalle mani, lo stesso può fare il robot. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Calogero Oddo, insomma avanti così. Grazie a voi. È tutto, a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.